Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Lo ha inventato il reverendo Robert Stirling nel 1816, ma la sua è una storia di nicchie, iniziata subito dopo la sconfitta nella competizione col motore a vapore di James Joule agli esordi della rivoluzione industriale. Pensate che il suo successo più grande è il ciclo frigorifero Stirling, l'unico sistema di raffreddamento che non usa l'evaporazione dei liquidi e riesce a raggiungere temperature inferiori ai 30 o 40 gradi sotto zero. Ebbene, di cosa stiamo parlando? Del motore Stirling. Io sono Maurizio Melis. Benvenuti a Mr. Kilowatt. Presento subito l'ospite, è con noi il professor Carlo Maria Bartolini, che è docente di impianti di conversione dell'energia dell'Università Politecnica delle Marche. Buonasera Bartolini. Buonasera a tutti voi. Dunque Bartolini, che cos'ha di diverso un motore Stirling dal comune motore a scoppio, quello che c'è dentro le automobili a cui siamo abituati? Allora, innanzitutto, come lei ha detto, il motore non è a scoppio, nel senso che la combustione non avviene all'interno del cilindro nel quale si muove uno stantuffo di lavoro, ma avviene esternamente e la fonte di calore può essere sia da combustione da qualsiasi altra azione di calore. E all'interno c'è un gas, che è il gas di lavoro, che si muove alternativamente da una zona all'altra, riscaldandosi e raffreddandosi, generando quindi quell'energia che serve per spingere lo stantuffo. L'avvantaggio rispetto ai motori a combustione interna è il fatto di avere, sicuramente non avere scoppio e quindi silenziosità, di avere la combustione esterna e quindi di essere suscettibile di ricevere il calore da parte di qualsiasi fonte di calore, quindi può essere quello solare, quello di una combustione di un prodotto non fossile, anche cippato, certo, legna, quello che uno vuole, e però dall'altra parte ovviamente la possibilità di dare una potenza molto piccola, perché questa è legata alla quantità di gas che sta lavorando. D'accordo, d'accordo. Quindi diciamo che non ci sono valvole, non ci sono scarichi, no. È molto più semplice questo motore, e poi va bene con appunto qualunque fonte di calore, perché come sappiamo in un motore a scoppio bisogna metterci o una benzina molto nebulizzata oppure del gas, ma non è che ci si può buttare dentro il pellet, sì, per esempio. Ecco. No, il combustibile richiesto dai motori a combustione interna o dalle turbogas sono combustibili più pregiati, più nobili. Qua invece si può accontentare di qualsiasi fonte di calore. Ok, quali sono quindi le applicazioni del motore Stirling che si vedono oggi come le più vicine nel settore in particolare del risparmio energetico? Attualmente la possibilità di far alimentare questo motore da combustione esterna lo rende possibile nel risparmio energetico, soprattutto applicabile al solare termodinamico, mm-hmm, e quindi ricevere solore da reggimento solare, oppure alimentarlo con cippato, con pellet, in piccoli gruppi domestici. Ma è possibile anche un affiancamento con la caldaia, se ho capito bene? Cioè è immaginabile che la solita caldaia a gas sia associata, sì, anche a questo strumento? Sì, è possibile che questo avvenga, anzi non è solo possibile, ma è quasi imminente l'introduzione proprio del mercato di caldaiette nelle quali è stato inserito un piccolo motore Stirling che mentre il gas riscalda la casa, per le temperature più alte, per la gamma di temperature più alte, alimenta il motore Stirling, che genera una corrente elettrica, un'energia elettrica con una potenza di 1 kW. Stiamo parlando della cogenerazione, quindi stiamo parlando di un gruppo cogenerativo, sì. Ecco, che abbiamo spiegato più volte a Mr. Kilowatt, è un concetto molto importante, perché è un modo, per così dire, di sfruttare al meglio la fonte di energia preziosa che rappresenta dai combustibili fossili. Senz'altro, ed è una cogenerazione, come dire, rovescia, nel senso che invece di recuperare calore dalla generazione elettrica si recupera, certo, energia elettrica mentre si produce calore. Certo. Ecco, senta, quali sono i costi, i tempi di payback di questa tecnologia? Intanto abbiamo detto che è disponibile, cioè qualcuno può andare volendo a comprarsi una di queste caldaie con il motore Stirling dentro? Attualmente no, ma fra qualche mese già sono, come dire, reperibili sul mercato. Intendo nel 2010, insomma. D'accordo, d'accordo. E perché sono nella fase proprio di lancio in questo periodo. I tempi di payback dipendono molto dalla zona climatica, perché ovviamente nel Mediterraneo ha tempi molto più lunghi, nel nord Europa hanno tempi molto più brevi, perché il riscaldamento domestico ha perlomeno 6 mesi dell'anno, da noi è molto meno, insomma. Questo è un po' il problema generale della cogenerazione, che bisogna tarare la produzione elettrica sul fabbisogno termico della casa, che però varia durante l'anno. Sì, esatto, questo è il primo parametro. Il secondo parametro, anzi secondo e terzo, sono il costo del combustibile e l'eventualità di alcuni incentivi. che ovviamente dipendono da paese a paese. Certo, certo. E quindi i tempi di payback previsti quali potrebbero essere? E i tempi di payback del supercosto, del sovraccosto rispetto alla caldaia normale vanno dai attualmente dai 4-5 fino ai 7-8 anni. E che potrebbero scendere invece in presenza di incentivi. Va bene, grazie Bartolini. Grazie, arrivederci. Prima di salutarci vi ricordo il podcast, lo trovate su www.radio24.it, c'è anche l'email Mr. Kilowatt, scritto per esteso, @radio24.it. Domani parleremo di risparmio energetico in un grande birrificio. Prosit!